questo martedì 13 settembre vediamo le aperture dei quotidiani. Il Sole 24 Ore, borse ancora giù, il BOT balza al 4,15%. Per il Corriere della Sera, la UE preme per altre misure. Repubblica, borsa e BTP sui mercati torna la paura. Per La Stampa, pronti a nuove misure, l'UE avverte l'Italia. Queste aperture abbastanza simili, insomma, sulla manovra e la necessità forse di fare ritocchi e sulle borse in calo forte. Poi le scelte diverse, il Fatto Quotidiano parla del viaggio di Berlusconi in Europa, l'Europa ridicolizza Berlusconi, gli diamo due minuti. Questo è il titolo di prima pagina. Per Il Giornale invece l'editore dell'Unità nei guai con il fisco. Ci si concentra su una indagine aperta sull'ex governatore della Sardegna Soru, che è appunto editore dell'Unità. Per Libero Silvio non si salva, niente amnistia ad persona, ma è il tema politico di cui ci siamo occupati ieri. E poi la cronaca per il Messaggero, strage nella fabbrica di fuochi, così apre anche l'Unità, morire di lavoro, esplode fabbrica di fuochi, 6 morti tra cui il proprietario. Insomma, queste alcune delle aperture, ne vedremo altre più avanti, c'è chi sceglie anche il nucleare come il Secolo XIX, paura nucleare al confine perché esplode un forno per il trattamento delle scorie in Francia, allerta in Liguria. In ogni caso, da cosa voglio partire? Da due storie. La prima è su Libero, ne scrive Franco Bechis in prima pagina: Lombardo ha persino i consulenti alla sicilianità. Lombardo è il presidente e governatore della Regione Sicilia, che fa sapere in 2 anni Libero spende la bellezza di 8 milioni e 31 mila euro in consulenze. La cifra non ha paragone con il trend di altre regioni, ma soprattutto ci si concentra sulla storia di una consulente particolare, Serafina Perra, 36 mila euro da marzo a ottobre 2011. Ed eccolo lì, il suo curriculum è solo uno dei 103 contratti di consulenza dell'esecutivo regionale. La consulenza della Perra è più speciale delle altre, scrive Bechis. Ha un ruolo delicatissimo, trovare idee per fare entrare nella testa di quegli zucconi ingrati degli studenti dell'isola il concetto di sicilianità. In realtà sul sito internet è riassunta così la sua posizione. È un esperto nelle azioni di intervento in materia di pubblica istruzione, in particolare per l'affermazione nella popolazione studentesca di elementi costitutivi essenziali dell'identità siciliana. E ironizza Bechis: non sappiamo se dopo 2 anni di lavoro la dottoressa Perra sia riuscita a convincere gli studenti siciliani degli elementi costitutivi essenziali dell'identità siciliana. Certo, se c'è riuscita lo ha fatto in gran segreto, perché all'assessorato regionale all'istruzione non si trova una sola persona che sia a conoscenza del metodo Perra. Ma insomma, il titolo è: pagano persino i consulenti di sicilianità, la regione Sicilia spende in collaboratore 8 milioni in 2 anni. Questa è la storia su cui si concentra, la storia di quella che è, fa notare Libero, ex assessore alla provincia di Catania, che all'epoca era guidata proprio dal governatore Lombardo. E a proposito di consulenze regionali, a proposito di enti, vogliamo tornare sulla questione province? Perché sia La Stampa che il Sole 24 Ore che Italia Oggi ne parlano. E allora le province, l'avevamo detto, è già questo disegno di legge costituzionale per l'abolizione di tutte le province puzzava un po' di tempo preso, perché si prende tempo e si rimanda con un iter molto lungo quando magari non si vuole fare nulla. Le province, come la Fenice, non ancora cancellate, trovano il modo di risorgere. Così La Stampa con Alessandro Barbera oggi a pagina 11. Come nel mito dell'araba Fenice, le province sono risorte dalle ceneri in 3 giorni. Venerdì il governo ha approvato il disegno di legge costituzionale per la soppressione degli enti intermedi. Gli scettici non si contavano, ma ecco che il presidente della provincia di Treviso, Muraro, annuncia: guardate che c'è un secondo comma di quel disegno di legge. C'è stato un errore, la bozza circolata è sbagliata. Il ministro Calderoli ha ribadito che il testo approvato prevede l'elezione diretta del presidente di un ente intermedio tra comune e regione. Entità che dovranno essere almeno con 300.000 abitanti ed essere superiori ai 3.000 metri quadri, giusto la dimensione necessaria a salvare quasi tutte quelle dell'area pedemontana del nord, fa sapere con una certa malizia La Stampa. Nuove entità, anche il Sole, le province rientrano dalla finestra. Il timore è che si passi dalle attuali province alle future province. Di giorno in giorno gli enti locali regionali pensati dal ministro Calderoli per ereditare le funzioni di area vasta rischiano di somigliare alla riedizione delle amministrazioni odierne. Il Sole ne parla a pagina 13. Per Italia Oggi addirittura l'apertura: province abolite, anzi no. Del testo uscito dal Consiglio dei Ministri spunta un comma che prevede la pronta sostituzione dell'ente con un altro che gli somiglia. E in Italia c'è sempre un comma, andate a leggere bene, perché in Italia c'è sempre un comma che spunta quando meno ve l'aspettate. Ci sentiamo tra 8 minuti. 24 mattino. E allora alle 7:34 in punto siamo qui con la lettura dei giornali. Come detto, è stata una giornata molto dura per le borse, così apre il Sole 24 Ore. Le borse europee, anche ieri in caduta libera, trascinate al ribasso da cosa? Dai titoli degli istituti bancari più esposti nei confronti della Grecia. È sempre la situazione di Atene che preoccupa più di tutti. Piazza Affari perde il 3,89%. Un effetto Grecia che ha travolto anche i titoli delle banche francesi. La Francia, insieme alla Germania, è uno dei paesi più esposti dal punto di vista bancario sulla Grecia, e vola anche i massimi lo spread tra il Bund e il BTP, che sappiamo ormai aver capito tutti questo differenziale che è salito a 385 punti tra Germania e Italia è uno dei segnali più negativi per il nostro paese, ne scrive Moria Longo a pagina 3 del Sole. Allora, l'Unione Europea ci sta tenendo sott'occhio. Oggi, come sapete, Berlusconi è in Europa, con le annesse anche polemiche politiche, tra poco le vedremo, ma intanto concentriamoci sulla questione del suo viaggio. Insomma, l'Unione Europea all'Italia ha fatto sapere pronti a nuove misure. Beda Romano ne scrive a pagina 11. Il rallentamento economico sta preoccupando le autorità comunitarie. È evidente il timore che il peggioramento della congiuntura possa mettere ulteriormente sotto pressione i bilanci nazionali, e dunque in un rapporto sullo stato della finanza pubblica nella zona euro pubblicato a Bruxelles, le autorità comunitarie spiegano che la ripresa economica nell'unione monetaria è fragile e dunque ci fanno sapere: cari italiani, cara Italia, sii pronta perché forse arrivano nuove misure, c'è la necessità di nuove misure. Ora, il premier Berlusconi ieri ha rassicurato: la manovra non si cambia. Però anche il Corriere scrive: il pressing di Bruxelles sulla manovra, l'Italia sia pronta, nuove misure, beh, ma quali sono queste nuove misure? Ecco che allora in realtà sotto traccia i politici italiani già ne stanno parlando. E allora che cosa sta rispuntando? Ve lo dico subito da Repubblica e dal Sole 24 Ore. Intanto Francesco Bei su Repubblica, nel suo retroscena politico, fa sapere che Giulio Tremonti ci sta provando a ritornare all'attacco con la Lega sul tema delle pensioni. Sapete che Bossi su questo non ci sente. Tremonti torna alla carica con Bossi, via i veti leghisti sulla previdenza. Pare che Tremonti, che ieri è andato a Monza a incontrare Umberto Bossi e Calderoli, perché a Monza? Perché sapete che a Monza ci sono i tre ministeri, no? Aperti, voluti fortemente dalla Lega, sedi decentrate dei ministeri. E allora pare che Tremonti abbia detto a Bossi: dobbiamo mandare un segnale politico, è vero che il nostro sistema previdenziale è sano, regge almeno fino al 2060, ma in Germania per esempio non capiscono le pensioni di anzianità, loro non ce l'hanno più e questo per noi è un problema. Ma dicono che Bossi, racconta Francesco Bei, si è rimasto sulle sue posizioni, senza cedere rispetto al muro alzato già un mese fa. E allora che cosa si prevede? Bisogna, per approfondire, leggere il Sole 24 Ore a pagina 13 con Lina Palmerini. Oltre alle pensioni, il terreno più scivoloso, c'è quello della patrimoniale, che rispunta il tema della patrimoniale, che, scrive la Palmerini, è estremamente trasversale nel mondo politico. Certo, una parola poco magica, quella della patrimoniale, che ha suscitato anche ripensamenti, come nel caso del PD bersaniano, che a febbraio bocciò la proposta Veltroni, Chino, Rossi, Morando, ma che ora ha progettato una sua patrimoniale. Ce ne fu anche una progettata da Calderoli, su questo la Lega invece ci sente di più, la questione patrimoniale. E poi rispunta l'eterno, il sempiterno, il mai sopito condono. Ne abbiamo parlato anche nella nostra trasmissione qui qualche giorno fa con uno dei due proponenti, l'onorevole Mazzocchi del Popolo della Libertà. Ora pare che a firma dell'onorevole Massimo Corsaro, sempre del Popolo della Libertà, sia rispuntata l'idea di un condono. E il Sole 24 Ore lo intervista Massimo Corsaro a pagina 13. Dopo un lungo preambolo, bisogna fare una manovra straordinaria che affronti il tema ineludibile del sistema italiano, vale a dire l'enorme debito pubblico. Dopo il preambolo di una riflessione sulla necessità di darsi un obiettivo strategico per l'Italia e le sue future generazioni, eccolo qui che si arriva al succo dell'intervista: il condono. Certo, dice Corsaro, il condono è il passaggio eticamente più duro. Ma vede, dopo la manovra il Parlamento discuterà la delega fiscale che punta alla semplificazione burocratica, la riduzione a 3 delle aliquote per andare verso un progressivo spostamento della tassazione dai redditi ai consumi. Il condono si porrebbe come la chiusura di una fase per stipulare un nuovo patto fiscale con i cittadini. Questa, aggiungo io, la sentiamo sempre a ogni condono, cioè si dice facciamo il condono ma che sia l'ultimo, facciamo il condono poi intanto facciamo la riforma fiscale che si attende da decenni. Intanto si fa il condono e Corsaro dice impareremo dall'esperienza. Questa è la frase centrale: mai più condono come quello a cui lei, Lina Palmerini, si riferisce. Si pretenderà il pagamento tutto e subito per mettere le risorse a totale disposizione della riduzione del debito. La domanda era: come fate a battere l'evasione fiscale se continuate con i condoni? E insomma, il concetto della risposta è: il condono, ma è l'ultimo. Questa volta è l'ultimo. Sta di fatto che anche Avvenire si concentra sul tema pensioni, a pagina 3, la previdenza all'italiana con il sacrificio dei giovani, vale a dire il nostro paese è quello del conflitto generazionale, no? In cui per pagare le pensioni di tutte le persone che hanno lavorato, però certo le future generazioni questo la pagheranno cara. Insomma, le misure potrebbero arrivare nuove e si pensa a patrimoniale, pensioni e condono. Allora, il viaggio a Bruxelles, come detto, di Berlusconi si accompagna con le polemiche politiche. Berlusconi ieri ha detto non scappo dai magistrati, spiego le misure all'Unione Europea. Intanto ai magistrati di Napoli che indagano sulla presunta estorsione ai suoi danni, nei quali sarebbe vittima di Tarantini, la vitola e la moglie di Tarantini, Berlusconi risponde mandando un memoriale che manderà oggi e col quale, scrive per esempio il Corriere della Sera con Marco Galluzzo a pagina 12, pensa di voler chiudere la questione, cioè non incontrare i magistrati, mandare un memoriale pensando che questo basti e credendo che questo possa bastare per chiarire la sua posizione a riguardo. Sta di fatto che anche il Corriere stesso scrive: Europarlamento, il viaggio diventa un caso, ci sono le proteste di dell'europarlamentare dei Verdi, dei liberaldemocratici. Il Jerzy Buzek, che è polacco, 61 anni, che è il presidente del Parlamento europeo, ha fatto sapere, questo ha suscitato nuove polemiche, che per l'incontro di Berlusconi al massimo potrò concedergli 2 minuti. Tanto che il Manifesto ironizza un clandestino a Strasburgo a pagina 3 e il Fatto Quotidiano lo mette in apertura: l'Europa ridicolizza Berlusconi, gli diamo 2 minuti. Il presidente del Parlamento Buzek smaschera il premier in fuga dai PM di Napoli. Ecco, secondo una certa stampa, la stampa diciamo di opposizione, se si può dire, è dunque un viaggio che è una fuga dai magistrati. Oggi era previsto inizialmente l'incontro, l'interrogatorio dei magistrati di Napoli a Berlusconi. Ma Berlusconi fa sapere invece, figurarsi se non è più importante la manovra, spiegare la manovra anche a Barroso invece di incontrare i magistrati, cosa che si può fare in un'altra data oppure con questo memoriale. Tanto che Libero a pagina 6 titola: pronto memoriale, così Silvio spera di non vedere i PM. Il cavaliere spiega con una nota alla procura i motivi della sua assenza. In realtà teme che l'interrogatorio sia una trappola degli inquirenti per incastrarlo e provare ad arrestarlo addirittura, perché c'è anche questa ipotesi che circola soprattutto tra i più scettici, più vicini al Presidente del Consiglio. Invece che essere parte lesa, il timore da parte di Berlusconi è che i magistrati vogliono in qualche modo convocarlo come presunta parte lesa in un'estorsione per poi farlo passare dopo l'interrogatorio da parte eventualmente dell'imputato. Insomma, un trappolone quello che teme Berlusconi. Berlusconi che però fa sapere, questa è una vicenda personale della battaglia Berlusconi Repubblica, ha perso una causa sulla questione delle famose 10 domande. Vi ricordate le 10 domande che furono originate dopo il caso di Noemi Letizia e furono fatte e studiate da Giuseppe D'Avanzo, giornalista di Repubblica scomparso a fine luglio? Ebbene, Berlusconi querelò il quotidiano Repubblica chiedendo anche per diffamazione 1 milione di euro per danni al suo onore e alla sua reputazione. Oggi fa sapere Repubblica, con un editoriale di Ezio Mauro e un articolo a pagina 15, che è stato bocciato la richiesta di diffamazione, insomma è stata persa la causa da Berlusconi e dunque le 10 domande erano legittime, fa sapere Repubblica. Bocciato il risarcimento danni chiesto da Berlusconi a Repubblica per diffamazione. I giudici in sede civile hanno stabilito così e dunque Ezio Mauro firma anche l'editoriale di prima pagina: Berlusconi sconfitto sulle 10 domande. C'è invece molta maretta nella Lega. Perché? Perché Bossi ha tuonato molto contro i sindaci, soprattutto Flavio Tosi, il sindaco di Verona, molto critico nei confronti della manovra, ma anche il sindaco di Varese Attilio Fontana, intimando loro di non partecipare allo sciopero che giovedì, lo sciopero, la manifestazione che l'Associazione dei Comuni ha indetto per protestare contro la manovra. Niente piazza, Bossi frena i suoi sindaci a pagina 15, insomma il concetto è: non si può sempre andare contro il governo, contro noi stessi. Niente manifestazioni per i sindaci padani, quella che qualcuno definisce una decisione brezneviana, scrive per esempio Marco Cremonesi sul Corriere della Sera. E non potete manifestare. Addirittura, secondo Repubblica, il sindaco di Verona, Flavio Tosi, per lui sarebbe stata minacciata l'espulsione dalla Lega. Scatta il divieto di partecipare ai cortei antimanovra e la Lega frena i suoi sindaci ribelli e la voce girata per tutto il giorno col Consiglio federale della Lega che esaminerà la proposta di espulsione addirittura del sindaco Flavio Tosi. Staremo a vedere intanto le informazioni sul traffico. E allora, 7:47 minuti, noi come detto parleremo soprattutto di lotta all'evasione fiscale con i comuni che si concentreranno per cercare di reperire più soldi dagli evasori fiscali, tra l'altro con un sistema innovativo. Avremo il vicepresidente della provincia di Reggio Emilia che ha messo a punto un sistema innovativo per controllare, una sorta, qualcuno dice, di Grande Fratello, tutti coloro che, non so, si iscrivono a palestre, hanno magari la TV a pagamento, un sistema per controllare un po' tutte le bollette, per cercare di capire se il tenore di vita poi corrisponde alle spese che facciamo. Partirà a Reggio Emilia e ne parleremo alle 8:30, ma certo la questione dell'evasione fiscale oggi trova addirittura sul giornale l'apertura di prima pagina, perché ci si concentra su cosa? Su una indagine che riguarda l'ex governatore della Sardegna Renato Soru, che oggi è anche editore dell'Unità. Ed ecco il titolo del giornale: l'editore dell'Unità nei guai con il fisco. Mario Giordano, l'editore antievasori, ha la Guardia di Finanza in casa. Nelle ultime settimane, scrive Mario Giordano, hanno dato la caccia agli evasori per mare e per terra. Evidentemente però si sono dimenticati di guardare nell'ufficio accanto a loro. Poveri redattori dell'Unità. Ogni giorno non risparmiano di bacchettare, svergognare coloro che sono anche solo sospettati di non pagare le tasse. Ora scoprono che tra costoro c'è anche il loro editore. Per la verità, l'Unità dà la notizia a pagina 13, in basso, indagine Andalas, Soru assicura massima collaborazione, la Guardia di Finanza ha avviato un'indagine per evasione fiscale su Andalas Ltd., una società con sede a Londra riconducibile a Renato Soru, vale a dire il patron di Tiscali. L'indagine nasce da una precedente inchiesta per aggiotaggio, avrebbe al centro, stando ai pochissimi elementi trapelati, trasferimenti di denaro effettuati tra il 2005 e il 2010, con Soru che dice massima collaborazione nei confronti delle autorità, riaffermando il proprio genuino convincimento sulla buona fede e sostanziale correttezza della propria condotta fiscale. Certo, anche però Libero attacca: sotto a chi tocca, indagano Soru, evasione fiscale, altra botta ai democratici. Vabbè, insomma, di evasione fiscale se ne parla anche così. Certo, questo è un paese anche un po' strano, nel quale rispunta di colpo, dopo 31 anni, la vicenda di Ustica. Perché c'è stata una sentenza che ha garantito ai familiari delle vittime della strage di Ustica del 27 giugno 1980 risarcimenti con un maxassegno da 100 milioni di euro. Così dovranno essere risarcite le 81 vittime, i familiari delle 81 vittime della strage di Ustica. Perché? Perché ci furono ostacoli sull'accertamento della verità, depistaggi su Ustica. Vabbè, questo è il tema che da 31 anni, sul quale da 31 anni ci dibattiamo e si dibatte. Ministeri condannati a risarcire 100 milioni. Ne parla il Corriere della Sera con un'intera pagina, pagina 25, con Felice Cavallaro. C'è anche un intervento di Andrea Purgatori, che allora era il Corriere della Sera, anche l'autore di quel Muro di Gomma, no? Uno dei film, il film inchiesta più importante su questa vicenda. Ebbene, insomma, ritorna questa vicenda con la somma record ai parenti delle 81 vittime di 100 milioni condannati il Ministero della Difesa e il Ministero dei Trasporti. Trovate molto ovviamente anche sulla questione del sito nucleare francese, dove c'è molto, molto timore, c'è stato molto timore ieri per questa esplosione, con però, assicurano le autorità, nessuna fuga radioattiva. Ma io mi voglio concentrare in chiusura su una vicenda che ha trovato poco spazio sui giornali. Oggi il Fatto Quotidiano ci fa mezza pagina e anche Libero in prima pagina. I poliziotti si scoprono guerriglieri, lacrimogeni contro la casta. È una vicenda che Silvia Donghia racconta, emersa a Ferragosto in realtà, ma finita un po' nel dimenticatoio, quando un sindacato di polizia, Polizia dello Stato, il sindacato COISP, Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze di polizia, un'organizzazione da 7.000 aderenti in tutta Italia, quindi non estremamente rappresentativa e minoritaria certamente, ma ha fatto un comunicato apparso sul sito internet alla vigilia di Ferragosto, nel quale si scrive così: viene voglia di venire sotto Palazzo Madama e Montecitorio e spararvici all'interno i nuovi lacrimogeni in dotazione, così si coglierebbero due piccioni con una fava, ovvero si otterrebbe lo sgombero immediato di certi ristoranti da politici mediocri e si testerebbero su questi ultimi gli effetti dei nuovi artifici lacrimogeni in dotazione alle forze di polizia, la cui lesività, nonostante le numerose interpellanze parlamentari, è sempre stata tenuta nascosta da lor signori. Dei poliziotti che dicono bisogna sparare dei lacrimogeni all'interno del Parlamento. Oggi Filippo Facci, nel suo appunto in prima pagina di Libero dal titolo Maroni, scusi, riprende proprio questo comunicato del sindacato di polizia COISP e scrive: ora, se ci limitassimo a dire che i politici dovrebbero davvero riflettere, i cretini saremmo noi. Ergo, meglio essere chiari, questi poliziotti che hanno redatto il comunicato dovrebbero stare in galera, dovrebbero arrestarsi da soli, mettersi le manette e di corsa. Non grideremo al golpe, non ricorderemo l'ABC di una democrazia moderna, non dedicheremo alla faccenda più di questa rubrica, ma se non succede qualcosa, se i politici non reagiranno a questo autentico troiaio istituzionale, presto piangeranno tutti, con o senza lacrimogeni. Insomma, una vicenda che mi ha molto inquietato e con la quale do la linea al giornale radio.